Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera andiamo a Padova, dove a pochi chilometri dal centro della città siede uno dei più grandi interporti italiani, un centro logistico intermodale da 1 milione di metri quadri che 5.000 treni all'anno collegano i principali porti e interporti europei. Circa 10 anni fa in questo contesto è nato City Porto, un servizio legato alla distribuzione delle merci sull'ultimo miglio, in particolare nel centro storico della città di Padova, con mezzi a basso impatto ambientale. È una strada tentata anche da altri comuni, con non poche difficoltà e anche qualche delusione. Invece City Porto rappresenta oggi un modello di successo che sta facendo scuola. Per parlarcene, Chiara Albicocco ha incontrato Roberto Tosetto, direttore dell'Interporto di Padova. Sentiamo. City Porto è un servizio che è nato così complementare, ma che poi in questi anni si è sviluppato molto e va a coprire il cosiddetto ultimo miglio, nel senso che sono consegne che facciamo nella città di Padova, nei centri dove ci sono zone, chiamiamole protette dal traffico veicolare normale. Ecco, tramite questo servizio noi mettiamo in collegamento le grandi spedizioni con le lunghe percorrenze, portando con mezzi ecologici al centro della città tutti i prodotti, i pacchi e le richieste che ci vengono fatte. Quindi evitate che i grossi distributori entrino nel centro storico con tutte le conseguenze, insomma con mezzi anche grossi, pesanti, e invece le distribuite con mezzi, lei diceva, ecologici. Cosa sono, a metano o elettrici? Sono a metano e sono anche elettrici, principalmente a metano, perché la tecnologia elettrica sta avanzando per fortuna rapidamente. Il risparmio ecologico e ambientale è di due tipi: uno ovviamente con una minore produzione di CO2, ma anche e soprattutto organizzativo, perché noi raccogliendo tutti i pacchi in una zona lontana ma relativamente vicina, quindi siamo collocati circa 3-4 km dal centro urbano, arrivano mezzi pesanti che non creano disagio, noi mettiamo assieme con software ricercato tutte le varie consegne, quindi riusciamo a consegnare in un unico negozio 4-5 pacchi da provenienze diverse. Quindi oltre al risparmio del tipo di mezzo che utilizziamo, c'è anche risparmio numerico, che è consistente, perché invece di andare 4-5 camion o camioncini allo stesso negozio, ne va uno solo e consegna 5 pacchi. Possiamo dire che è un'esperienza di successo, perché ormai la state portando avanti da 10 anni e continuate ad ampliarla. Mi sembra che abbiate in progetto proprio di consegnare anche i prodotti, quelli che fino ad ora magari non consegnavate perché erano un po' più delicati, freschi, surgelati, quelli che richiedono, diciamo, dei mezzi un po' più particolari. Certo, è un'iniziativa di successo, grazie anche ovviamente alla collaborazione del comune. Funzionando per i pacchettini, i pacchi normali, stiamo avendo la forza economica per tentare di fare anche quest'ultimo balzo. Essere arrivati a festeggiare i 10 anni dà una dimostrazione che, anche perché poi i contributi spariscono, cioè finita la fase iniziale in cui abbiamo avuto dei sostentamenti per acquisti e mezzi, poi questo servizio si alimenta con il recupero dei costi. E infatti, se non erro, avete reso pubblico il bilancio del 2012 in cui siete arrivati a degli utili di circa 300.000 euro e dei ricavi sopra i 30 milioni, quindi diciamo che il servizio va bene. Dopo aver pagato 1.600.000 di IMU e così via, quindi è doppiamente soddisfazione, quindi è chiaro che avendo un risultato di esercizio positivo si ha anche più forza, ma questo non diventa un peso, anzi diventa un'opportunità. Uno stimolo, certo. Che in percorso. Il fatto poi di andare in consegna con un soggetto come il nostro, che è neutro, non alimenta concorrenza tra i vari spedizionieri, credo sia un'altra cosa molto importante, però dimostra che si può fare, quindi lo spazio verso altre iniziative simili, per esempio da noi vengono molte città francesi per cercare di imparare, per cercare di capire come funziona, ma anche città italiane, perché il problema della consegna e del traffico urbano nelle città è un problema di tutti. Certo, e poi tra l'altro in Italia, quanto lo sappiamo, perché i nostri centri storici appunto sono talmente pregiati e prestigiosi che in qualche modo dovremmo riuscire a conservarli allo stesso modo. Ecco, quindi dal punto di vista economico funziona, anche dal punto di vista ambientale, mi sembra, direttore, perché nel 2008 si è avviata un'indagine del Ministero per l'Ambiente che vi ha dato dei buoni risultati anche lì, mi sembra che ci sia stato un risparmio di 220 tonnellate di CO2 all'anno, insomma niente male anche dal punto di vista, insomma, dell'ambiente. Sì, niente male, è un risultato tratto certificato, è frutto ovviamente di quelle 100.000 consegne che facciamo e che ne risparmiano 500.000 all'anno, e non sono pochi, è una città piccolina e con appunto questi monumenti, questi spazi angusti di pregio architettonico, oltre al fatto che non si inquina. Bene, grazie a Chiara Albicocco, grazie a Roberto Tosetto, noi ci sentiamo domani, buona serata.